Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Questa sera vi proponiamo un radiodocumentario in collaborazione con History Channel sulle costellazioni e i loro segreti. All'interno, le testimonianze di diversi astronomi. Ascoltiamo. Prima che arrivasse la tecnologia, dai GPS alla semplice bussola, i navigatori ricorrevano alle stelle. Come cartelli lungo la strada, le costellazioni possono aiutarci ad arrivare dove vogliamo. Ci permettono di orientarci nella notte, indicandoci la direzione da prendere. Per comunicare la posizione di un oggetto sulla superficie servono le coordinate, latitudine e longitudine. Analogamente abbiamo un sistema di coordinate celesti. Ma in questo caso non vengono definite longitudine e latitudine, bensì declinazione ed ascensione retta. Sono semplici proiezioni nel cielo della latitudine e della longitudine terrestri. Gli antichi navigatori usano questa rete immaginaria per identificare la posizione delle stelle e orientarsi in mare. Usando un sestante, i marinai sono in grado di sfruttare astri come la stella polare per la navigazione. Ora che il GPS ha sostituito i sestanti, le coordinate celesti sono più importanti per gli astronomi che per i marinai. E anche se il sistema di coordinate dà loro un'idea di dove puntare i telescopi, è assolutamente inadeguato. Si basa sul presupposto che tutte le stelle si trovino alla stessa distanza da noi. Un'idea che è totalmente errata. Così accade quando si osserva l'orizzonte di una città da una certa posizione. Sebbene questi edifici sembrino essere alla stessa distanza, in realtà non è affatto così. Lo stesso vale per le stelle. Alcune sono molto più lontane delle altre. Il primo strumento di ogni astronomo che si rispetti è il fenomeno della parallasse. È qualcosa che tutti noi usiamo su una scala più piccola per osservare il mondo in tre dimensioni. Per comprendere questo fenomeno possiamo ricorrere a un esercizio molto semplice, alla portata di tutti. Guardate il vostro dito e poi un oggetto molto, molto distante. Allineate il dito con l'oggetto, prima osservatelo con l'occhio destro e poi con l'occhio sinistro. Avrete l'impressione che il dito si sia spostato in modo significativo. Gli astronomi misurano la parallasse osservando una stella in una posizione e poi riosservandola 6 mesi più tardi, quando la stella ha raggiunto il punto più lontano rispetto al nostro punto di osservazione. 6 mesi, infatti, è il periodo in cui la Terra ha raggiunto la distanza massima dalla posizione originale. Più la stella è vicina, più grande è la parallasse. Il problema è che le stelle non sono molto vicine. Persino l'angolo di parallasse della stella a noi più vicina, Proxima Centauri, è difficile da misurare. Per misurare la distanza di astri più lontani, gli astronomi si affidano a un punto di riferimento familiare. Una stella chiamata variabile Cefeide. La costellazione Cefeo, che prende il nome da un mitico re d'Etiopia, annovera 57 stelle visibili, tra cui Delta Cefei, una stella variabile che è il prototipo delle variabili Cefeidi. Per un capriccio della natura, le Cefeidi tengono il tempo come un metronomo. Più grande e luminosa è la stella, più pulsa lentamente. Se osservo la mia variabile Cefeide e ne traccio la curva di luce, che indica il tempo che impiega ad espandersi, restringersi e ad espandersi di nuovo, questo mi dice qual è la luminosità reale di quella stella. Dunque posso calcolare la distanza delle stelle variabili osservando il loro periodo di variazione. Una candela standard è un termine di paragone. È una stella di cui conosciamo luminosità e distanza e che possiamo confrontare con corpi celesti simili. È così che Edwin Hubble riesce a determinare che Andromeda si trova a 2 milioni di anni luce di distanza dalla nostra galassia. Ma le variabili Cefeidi hanno i loro limiti. Per misurare distanze che vanno ben oltre Andromeda, gli astronomi si affidano alle supernove. È stato scoperto che anche le supernove possono essere catalogate come candele standard. Le supernove di tipo 1A sono identiche in tutto l'universo. Sappiamo come calibrarle e in questo modo possiamo calcolare distanze che arrivano fino al Big Bang e all'estremo limite dell'universo. Orione, che in greco significa cacciatore, ha 77 stelle visibili. Quando osservo Orione, osservo anche la vita e la morte delle stelle. Proprio sotto la cintura c'è una piccola macchia chiamata nebulosa di Orione. È un asilo nido, un nido per stelle neonate, ed è possibile osservarla a occhio nudo. Orione vanta anche un paio di vere e proprie gemme. Se osserviamo in alto a sinistra, vedremo la supergigante rossa Betelgeuse. E se si sposta lo sguardo in basso a destra, su quella che sembra la gamba, possiamo distinguere la supergigante blu Rigel. Come tutte le supergiganti rosse, Betelgeuse è una stella agonizzante. Ha una massa 14 volte superiore a quella del nostro Sole. Quando esaurirà il combustibile nucleare, diventerà instabile e imploderà in una colossale supernova. Può esplodere in qualunque momento. E quando questo accadrà, illuminerà l'intero cielo notturno e sarà visibile persino durante il giorno. Dista 427 anni luce dalla Terra, il che significa che forse è già esplosa, ma la luce non ha avuto ancora il tempo di raggiungerci. La supernova attirerà ancora una volta la nostra attenzione su quel cielo che ci affascina da migliaia di anni. Gli antichi egizi consultano gli astri per capire quando seminare e quando mietere. Ogni stella possiede un significato sacro. La stella di Isis, nella costellazione del Cane Maggiore, viene chiamata Sirio. L'apparizione di Sirio prima dell'alba durante il solstizio d'estate preannuncia il periodo di piena del fiume Nilo. Gli egittologi si sono spesso chiesti come mai le tre grandi piramidi costruite dagli egizi non sono ben allineate. Le piramidi sembrano essere allineate alle tre stelle della costellazione di Orione. Ma per gli antichi egizi Orione non rappresenta affatto un cacciatore. La identificano con Osiride, il dio della rinascita. Alcuni ipotizzano che i condotti d'aria all'interno delle piramidi siano stati progettati per proiettare nei cieli le anime dei faraoni. In quelle piramidi abbiamo due diversi tipi di condotti. Uno punta verso nord e un altro verso sud. Il condotto sud punta su Orione. Dunque l'anima del faraone veniva proiettata attraverso questo condotto per essere collegata ad Osiride, cioè ad Orione, e dunque per resuscitare, godendo della vita eterna. Il condotto nord punta dritto su una stella in particolare. Quello diretto a nord era puntato su quella che tra il 3000 e il 2000 a.C. era la stella polare e all'epoca era Tuban. Tuban è situata nella costellazione Draco o del Dragone, che conta 79 stelle visibili. È stata sostituita dall'attuale stella polare, Polaris. Situata nella costellazione dell'Orsa Minore, è 2500 volte più luminosa del Sole. Anche se governa i nostri cieli come stella polare da tempo immemorabile, il suo regno non durerà per sempre. La Terra è come un giroscopio o una trottola. Se la faccio ruotare rapidamente e poi sposto l'asse, punta nella stessa direzione. Ora, quando la Terra ruota attorno al Sole, punta sempre nella stessa direzione. Tuttavia, la precessione è causata da un'interferenza gravitazionale, quindi la Terra inizia a oscillare. Quando questo accade, il suo asse disegna un cerchio nel cielo. Per completare il cerchio ci vogliono 26.000 anni. Il polo nord celeste continuerà ad allontanarsi dalla posizione di Polaris. Tra circa 14.000 anni, dopo aver completato metà della rotazione, sarà vicino a Vega. E dal momento che Vega è molto più brillante delle altre stelle in quella porzione di cielo, sarà una stella polare molto significativa. In 26.000 anni, l'asse della Terra puntato sul polo nord compierà un cerchio completo e punterà di nuovo nella direzione in cui sta puntando ora. E Polaris spodesterà Vega, riprendendosi lo scettro di stella polare. Le stelle variano per dimensioni, densità e luminosità. Invece di brillare in maniera costante, come la maggior parte degli astri, le stelle variabili pulsano aumentando e diminuendo la propria luminosità con una frequenza ipnotica. Le stelle variabili di una particolare classe chiamata T Tauri pulsano perché sono giovani e instabili. A un certo punto le T Tauri smetteranno di pulsare. Invecchiando, raggiungeranno il proprio equilibrio, diventando stelle stabili. Gli scienziati ritengono che anche il Sole, prima di maturare, fosse una T Tauri. Queste stelle probabilmente ci offrono un'ottima descrizione di come dovevano apparire il Sole e il nostro sistema solare quando si sono formati all'inizio della loro evoluzione. Se fossimo stati presenti in quella fase, probabilmente avremmo assistito a scontri di grande violenza, pezzi di roccia che collidono tra loro bombardandosi a vicenda. Le prime stelle Titauri sono state identificate nella costellazione del Toro. Questo gruppo annovera 98 stelle visibili. Il Toro è una delle costellazioni dello Zodiaco situate in prossimità del piano dell'eclittica. Viene definito piano dell'eclittica perché è l'unica circonferenza in cui hanno luogo le eclissi. Per esempio, per provocare un'eclissi solare, la Luna deve passare attraverso l'eclittica. 8 gradi al di sopra e al di sotto dell'eclittica si trova una regione chiamata Zodiaco. Ogni costellazione situata all'interno di questa fascia viene definita costellazione zodiacale. In ogni momento il Sole attraversa una costellazione dello Zodiaco. Si frappone tra noi e un particolare gruppo di stelle. Dal momento che gli orbitiamo attorno, il Sole sembra muoversi attraverso le costellazioni dello Zodiaco che appaiono immobili nel cielo. Durante la notte, la porzione opposta del nostro cielo è illuminata dal Sole. Gli astrologi collegano ognuna delle 12 costellazioni dello Zodiaco al mese in cui il Sole le attraversa. Perciò in giugno la nostra stella attraversa quella del Cancro e in luglio quella del Leone. Ma questo presenta un problema. Ogni costellazione ha una grandezza differente, alcune sono piccole, altre più grandi. Il Sole impiega 7 giorni ad attraversare lo Scorpione, la più piccola costellazione dello Zodiaco, e 44 per oltrepassare la Vergine, che è la più grande. Perciò non si può dividere l'anno in 12 parti uguali con 12 costellazioni dalla forma identica. Molte persone attribuiscono un'enorme importanza ai segni zodiacali, al loro segno solare. Ma in realtà, a causa della precessione della Terra, la costellazione in cui il Sole appare oggi è diversa da quella in cui appariva 2000 anni fa. Quindi la prossima volta che qualcuno vi dice che siete competitivo perché siete uno scorpione, potete rispondergli che oggi, in realtà, non appartenete più a quel segno. Dalla famosa frase di che segno sei, alla previsione del futuro, alla definizione dei tratti della personalità, i 12 segni dello zodiaco hanno giocato un ruolo importante nella cultura popolare. Ma da dove arrivano questi segni? E chi ha dato i nomi alle stelle? In qualche caso i nomi originali risalgono all'epoca mesopotamica. Alcuni sono stati aggiunti dai greci e dai romani, qualcuno è sopravvissuto, altri invece no. Col crollo dell'impero romano attorno al 450 d.C., gran parte di questa conoscenza andò perduta, ma fu conservata dagli arabi. Nel 150 d.C., lo scienziato greco Claudio Tolomeo, combinando le proprie osservazioni con quelle dei suoi predecessori, attribuisce il nome a più di un migliaio di stelle. Sappiamo che tra tutte le costellazioni che affollano la volta celeste, 12 fanno parte dello zodiaco. Anche chi non è appassionato di astrologia sa qual è il proprio segno zodiacale. Quello che invece molti non sanno è che le costellazioni dello zodiaco non sono affatto 12. In realtà sono 13. Ofiuco, che in greco significa serpentario, è il nostro segno dimenticato. Ha 55 stelle visibili. Situata tra lo Scorpione e il Sagittario, Ofiuco è molto più grande delle costellazioni che le stanno attorno. Pur essendo una delle 48 configurazioni stellari catalogate da Tolomeo, alcuni scienziati ipotizzano che non sia stata inclusa nello zodiaco per ottenere un numero di segni pari. Altri pensano che la precessione possa aver spinto Ofiuco al di fuori della fascia zodiacale, ma la vera ragione rimane un mistero. Radio Doc. Continua il nostro viaggio nelle costellazioni. L'unica stella dell'universo che non appartiene a una particolare costellazione è il nostro Sole, una tipica stella di massa media. Quelle con massa pari a 50 o 100 volte quella del Sole sono chiamate stelle di Wolf-Rayet. Questi astri di massa enorme sono incredibilmente luminosi e sono nelle fasi finali della loro evoluzione. La ragione per cui diventano così luminose è che l'emissione di energia e radiazioni è così violenta, così potente, da espandere gli strati esterni dell'atmosfera. Anche se gli scienziati non hanno mai osservato direttamente la morte di Wolf-Rayet, ipotizzano che la loro esistenza si concluda con una colossale supernova. O forse con il collasso in un enorme buco nero. Oggi le nostre reti di telescopi a terra e nello spazio permettono di individuare qualsiasi punto del cielo. Ma nell'antichità gli astronomi che vivevano nell'emisfero nord non potevano rendersi conto che da quello australe la vista è completamente diversa. Nell'emisfero sud la particolarità più significativa del cielo notturno è la Via Lattea. Nella nostra galassia abbiamo zone oscure, si tratta di nubi di polveri. Quando le si osserva dalla Terra sullo sfondo di oggetti molto più luminosi come la Via Lattea e le altre stelle, essendo scure, emergono ancora più nettamente. Questi densi ammassi di polveri sono conosciuti come nebulose oscure. Con lo sviluppo dell'astronomia, la comunità scientifica ravvede la necessità di uniformare i nomi e le forme delle varie costellazioni. Nel 1922 fu costituito un gruppo chiamato Unione Astronomica Internazionale. Era una specie di organismo politico composto da scienziati incaricati di mettere ordine nel cielo e di fissare confini su cui tutti fossero d'accordo. L'Unione Astronomica adotta la maggior parte delle costellazioni descritte da Tolomeo e ne aggiunge altre per comprendere ogni stella visibile senza ricorrere a sovrapposizioni. Complessivamente le costellazioni del cielo notturno sono 88, ma ci sono altri piccoli gruppi di stelle, distinguibili per la loro forma caratteristica, chiamati asterismi, come per esempio il Grande Carro e il Piccolo Carro. Il Grande Carro è composto dalle stelle più luminose dell'Orsa Maggiore. L'Orsa Maggiore, o Ursa Major, ha 71 stelle visibili. Il Cigno, in latino Cygnus, annovera 79 astri visibili. La coda di questa costellazione è formata da un vero e proprio mostro termonucleare, una stella chiamata Deneb. Ha un diametro pari a 200 volte quello del Sole ed è 250.000 volte più luminosa. È considerato uno dei più grandi esemplari di supergigante bianca. Le supergiganti bianche sono rare, perché queste stelle stanno passando dallo stato di supergigante rossa a blu, una fase che dura solo pochi milioni di anni. Per gli standard umani può apparire un tempo molto lungo, ma per una stella equivale a meno dell'1% del suo ciclo vitale. Per essere una costellazione dal nome così gentile, il Cigno porta le cicatrici di un passato violento. Il Cigno ospita anche un immenso oggetto celeste chiamato Nebulosa Velo, formata dall'esplosione di una supernova. In poche parole, è una stella ridotta in briciole. Nel cuore della costellazione si trova un enorme buco nero chiamato Cygnus X1. Si tratta di un buco nero di massa 8,7, vale a dire con una massa 8,7 volte quella del nostro Sole, ed orbita attorno ad un'altra stella. Cygnus X1 è stato il primo buco nero mai registrato. In effetti, trattandosi di un buco nero, è molto difficile da individuare. All'inizio ci siamo resi conto della sua esistenza per l'effetto che aveva sulla sua compagna, che è una stella gigante. Infatti la sta lentamente divorando e alla fine, con ogni probabilità, la ingoierà completamente. In ogni costellazione ci sono stelle che nascono, mentre altre vengono inghiottite da buchi neri. Ogni supernova, stella esotica e nebulosa hanno una cosa in comune. Sono identificate dalla costellazione in cui si trovano. Ma in passato, prima ancora che inventassero telescopi ad alta potenza per individuarle, le costellazioni svolgevano un'importante funzione. Erano portatrici di notizie di grande importanza, impossibili da ignorare. Osservando l'alba e il tramonto del Sole, le fasi della Luna, le apparizioni e le sparizioni stagionali delle stelle, gli esseri umani si rendono conto che c'è un ordine nell'universo. E questo consente loro di prevedere ed anticipare alcuni eventi che avvengono ciclicamente sul nostro pianeta. È uno strumento per la sopravvivenza. Oggi le costellazioni continuano ad avere una loro utilità. Invece di dirci qualcosa del nostro pianeta, ci aiutano ad orientarci tra le stelle. Le costellazioni dividono il cielo in territori. Quando parliamo di Orione, ci riferiamo subito ad una porzione di cielo ben precisa. Per un astronomo, una costellazione è una mappa che ci aiuta ad organizzare il cielo per poter ritrovare ciò che ci interessa. E anche se il cielo notturno è infinito, le polveri interstellari e la distanza ci bloccano la visuale, permettendoci di vedere solo una minima parte delle stelle. In una notte molto scura è possibile distinguere ad occhio nudo, vale a dire senza ricorrere ad un binocolo, 1500 o 2000 stelle. Quindi ciò che vediamo è solo una frazione minuscola dell'universo. Il Centauro o Centaurus contiene 101 stelle visibili. Due di questo gruppo, Alfa e Beta Centauri, sono le più luminose del nostro cielo notturno. Alfa Centauri è anche la stella più vicina al nostro pianeta dopo il Sole. E osservando più attentamente, ci rivela che in realtà si tratta di un sistema triplo. Non è insolito incontrare sistemi simili a questo con stelle che orbitano una attorno all'altra. Anzi, è la norma. Più del 60% delle stelle che vediamo in cielo in effetti sono doppie, triple o quadruple. Il nostro Sole è un'eccezione. A quanto pare non ha nessuna compagna. Mentre la nostra stella prosegue il suo viaggio solitario attraverso lo spazio, quelle di Omega Centauri sono sempre in buona compagnia. È l'ammasso globulare più luminoso distinguibile ad occhio nudo, o comunque senza un telescopio, perché è un ammasso composto da circa 10 milioni di stelle. Omega Centauri è il più grande ammasso globulare della nostra galassia. Queste stelle, strettamente correlate tra loro, hanno tutte orbite diverse e molto complesse, ma riescono comunque a muoversi insieme come un unico gruppo. Nessuno sa con certezza quale sia la sua origine. La luce di Alfa Centauri impiega circa 4,2 anni per raggiungerci. Ma quando osserviamo Omega Centauri, quella che vediamo è una luce di 16.000 anni prima. Questa è un'indicazione di quanto sia grande la costellazione del Centauro e dimostra che queste forme esistono solo nelle nostre menti. Nel momento in cui iniziamo ad allontanarci dal Sole di parecchi anni luce, le stelle vicine iniziano a spostarsi rispetto a quelle relativamente più distanti e le costellazioni iniziano a distorcersi. A 10, 20, 30 anni luce probabilmente non riusciremmo a riconoscerne alcune. Se vivessimo su un pianeta orbitante attorno a Vega, a 25 anni luce di distanza, il cielo presenterebbe delle costellazioni di tipo diverso. Millenni di osservazione hanno reso prevedibile il movimento circolare delle costellazioni. La nostra rotazione attorno al Sole ci accompagna lungo il loro ciclo annuale. Le stelle nelle costellazioni sono in moto costante, non soltanto a ruotare della galassia, ma anche per l'effetto dell'attrazione gravitazionale reciproca con le loro vicine. Le stelle possono toccare i 250 km al secondo. Nessun oggetto artificiale è capace di tanto. Il moto casuale di queste stelle, in rapporto l'una all'altra, si avvicina di più ai 30 km al secondo, il che è comparabile alla nostra più veloce astronave. E naturalmente è molto più veloce di una pallottola ad alta velocità. Le stelle sono sempre in movimento e la loro distanza non ci fa cogliere la loro enorme velocità. È come guardare dal finestrino di un'auto in corsa. I pali della recinzione e gli alberi in prossimità della carreggiata schizzano via, mentre il paesaggio sullo sfondo scorre lentamente. Nell'arco della nostra vita, anzi di un migliaio di vite, gran parte delle stelle non sembra muoversi affatto. Ma poco a poco le nostre mappe stellari stanno raggiungendo la data di scadenza. Tra 10.000 anni le stelle saranno piuttosto diverse. Le costellazioni saranno alquanto differenti da quelle che vediamo oggi. Tra 500.000 anni saranno irriconoscibili. E se potessimo osservare una sequenza fotografica che copra un milione di anni, vedremo le stelle correre attraverso il cielo. Le costellazioni sono un'istantanea, un ritratto bidimensionale del cielo notturno. E come ogni ritratto, raccontano solo una parte di una storia. Se potessimo volare nello spazio e osservarle da un altro angolo, queste vecchie formazioni a noi così familiari sarebbero irriconoscibili. Ma ora, in questo momento, le 88 costellazioni sono dei rassicuranti punti di riferimento che ci ricordano il nostro passato. Ormai non hanno più il significato che gli era stato attribuito da chi le ha identificate per la prima volta. A loro interessava soprattutto il rapporto diretto di causa-effetto con gli eventi che interessavano le loro esistenze. Noi non usiamo più il cielo in quel modo, ma quelle storie e quelle immagini sono arrivate fino a noi. La moderna astronomia non usa le costellazioni per raccontare storie del passato, ma per interpretare l'universo che ci circonda. In uno spazio così vasto, del quale possiamo osservare solo una piccola frazione, guardiamo le stelle interrogandoci sul significato dell'universo, tracciando forme, inventando storie, tentando di risolvere i misteri che le costellazioni ci riservano. Vi Vi segnaliamo che History Channel trasmetterà la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato domani, lunedì 15 dicembre, alle 14.15. Radio Doc si chiude qui e vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Buonanotte.